Come vi dicevo, allora siamo in contatto telefonico con un compagno del Nomuos per sentire le considerazioni, insomma le prime considerazioni e commenti su questa sentenza del TAR che potrebbe bloccare il progetto. Come la interpretate allora voi laggiù? Ciao a tutti, anzitutto. Diciamo che finalmente un tribunale ha certificato le nostre preoccupazioni sull'antenna, si è limitato solo alla questione ambientale e della salute, che sicuramente sono questioni importanti, non è voluto entrare su quanto l'Italia in qualche modo sia schiava degli Stati Uniti con la costruzione, tramite la costruzione di queste antenne, però sicuramente è una grande vittoria e adesso aspettiamo immediatamente che vengano messi i sigilli, perché da tempo denunciamo che l'opera è illegale e pericolosa. E non siamo di soli in questo momento, abbiamo il TAR dalla nostra parte, però sappiamo bene che la politica fa e sfa come vuole, quindi bisognerà difendere questo risultato con le unghie e con i denti. Senti, quindi dovrebbe essere immediatamente operativa, al di là dei ricorsi che magari potranno essere presentati dalla controparte? La Solerte Avvocatura dello Stato ha già fatto sapere che presenterà un ricorso per sospendere questo provvedimento, diciamo. Però sì, se tutto dovesse andare come sembra essere, perché non c'è modo insomma di poter dire che non fa male, quindi non c'è motivo per non fermare l'opera, dovrebbe essere immediatamente esecutiva e da qui alla prossima settimana ci aspettiamo i sigilli, altrimenti tenteremo di ritornare davanti alla base e far rispettare noi quella sentenza, come è già accaduto al tempo della revoca. È una sentenza pure che mette molto in discussione le precedenti perizie dell'Istituto Superiore di Sanità e anche degli esperti, chiamiamoli così, della regione. È una sentenza che in realtà smantella tutta un'idea di come gli americani possono insomma lavorare qui in Italia, perché va a colpire un decreto del fare che autorizza gli americani di fatto a poter continuare i lavori quando e come vogliono. Distrugge completamente la linea di crocetto del governatore della Sicilia per quanto riguarda il balletto delle revoche, delle autorizzazioni, insomma. E dà una nuova interpretazione su come in Italia è possibile costruire nuove basi militari e dice finalmente che il diritto alla salute è primario anche rispetto alla difesa e alle basi militari, che è un ragionamento che varrà per tutte le altre, insomma, per le nuove installazioni che intendono fare in Italia, perché ci saranno sicuramente nuovi progetti, visto che ci sono dei climi di guerra fortissima. Sì, certo. Senti, io leggevo stamattina in rassegna stampa l'articolo del giornale La Stampa che titola: dagli States arriva un no comment ma Washington conta su Renzi. Quindi tu appunto dicevi la politica fa e disfa, c'è il pericolo che in qualche modo questa sentenza possa essere ribaltata. Fra l'altro in Sicilia non si ricorre al Consiglio di Stato ma al Consiglio di Giustizia Amministrativa, quindi mi sento di dire che ci potrebbero essere pressioni, diciamolo insomma, non siamo nati ieri, pressioni rispetto a un ribaltamento. Sì, non sarebbe sicuramente la prima volta, dato che già gli americani avevano smosso tutto il loro potere di convincimento nei confronti del tribunale di Caltagirone quando ci fu il sequestro. Diciamo che le alternative in questo momento sono tre: o ricorrere a questo secondo grado, insomma, del tribunale amministrativo, però potrebbe essere per loro un pericolo, perché normalmente sono molto lunghi e che quindi diciamo che non vi serve immediatamente quest'opera, sono già 5 anni in ritardo e non possono permettere ulteriori ritardi. Le altre cose ci preoccupano di più, cioè la risoluzione di questa vicenda con un intervento politico. Sicuramente Washington conta su Renzi, già la scorsa volta quando era prevista una udienza del TAR, guarda caso Obama è venuto a farci visita in Italia, e credo che nuovamente farà sentire la sua voce su Renzi dicendo: a noi serve, quindi prepara una legge speciale, fa in modo che si torni al vecchio sistema per cui il diritto alla salute e il diritto alla pace non prevalgano sugli interessi militari, addirittura stranieri in questo caso. Senti, un'ultima cosa, le vicende invece giudiziarie, ho visto che nei giorni scorsi ci sono state nuove denunce per questo lancio di materiale pirotecnico. Qual è la situazione dal punto di vista repressivo e giudiziario adesso? Che so, quante sono le persone sotto inchiesta? Allora, noi abbiamo all'incirca 200 persone sotto indagine, inchiesta, con processi aperti, più abbiamo centinaia di migliaia di multe che potrebbero, sanzioni amministrative che da qui a breve dovrebbero essere combinate per i blocchi. La situazione repressiva, e questa è la questione dei fuochi d'artificio, ce lo fa capire bene, è drammatica, perché la polizia ha deciso di mettere a tacere qualunque forma di dissenso. Se pensiamo al fatto che fuochi di libera vendita possono determinare denunce per esplosioni pericolose, capiamo l'entità della questione. Immaginate qui un commissariato in pieno fermento, con unità che provengono da Catania, da Palermo, mentre normalmente prima di questa vicenda Niscemi era una zona morta. Evidentemente lo Stato sta mettendo a disposizione tutti gli uomini possibili, tutti i mezzi possibili, affinché qualunque forma di dissenso, dalla meno conflittuale a quella magari un po' più forte, venga repressa immediatamente. Senti, comunque insomma un'iniezione di ottimismo il movimento l'ha avuta da questa sentenza in ogni caso, e qual è adesso la tenuta del vostro movimento? Ecco, adesso si apre un grosso bivio. Diciamo che per oggi mi piace parlare della città e non solo del movimento, nel senso che non si parla d'altro in tutta la città, ovviamente, e questo ci fa ben sperare sulle prossime tappe del movimento. Noi avremo a breve un'assemblea regionale per capire come andare avanti, perché il momento è molto delicato e, ripeto, bisogna difendere questa piccola vittoria da tutto e tutti. Ci sarà bisogno dei compagni, della città, di chiunque, per cui vedremo. Non abbiamo ancora le idee chiare, perché questa è stata un'ubriacatura di felicità in questo momento. Immagino. Senti, quindi non avete ancora fissato una data per questa assemblea? La data, l'assemblea è domenica, però farà domenica prossima, il 22. Sì, e sarà, insomma, potrà uscire una nuova manifestazione, potrà uscire qualche altra azione, ancora non sappiamo, perché francamente adesso in qualche modo la palla passa a loro, quindi saranno loro a dover dettare il gioco, e noi tenteremo di resistere. In quel caso si tratta proprio di resistenza contro chissà quale forma di abuso, insomma. Certo, benissimo, allora ci sentiamo sicuramente nel vista delle prossime iniziative.